sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Siamo state convocate anche noi. Grazie mille. Bene, allora siamo tutti convocati. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Bella la musichetta della Champions, Pierluigi. Bella, sì. Come va? Bene. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Daniele Bonamici in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Noi siamo qui fino alle 15.30, 90 minuti come 90 saranno i minuti questa sera di Paris Saint-Germain-Chelsea e di Shakhtar Bayern Monaco, perché finalmente si gioca anche a pallone. Sì, devo dire che è veramente una boccata d'aria fresca da questo punto di vista, anche se devo dire poi il campionato ultimamente secondo me sta comunque regalando belle partite. Non so, forse sono stato fortunato io nelle ultime che ho fatto, Lazio-Milan è stata una bella partita. Più per la Lazio che per il Milan, ovviamente. Anche Cesena-Juventus. Cesena-Juve è stata una bella partita. Sassuolo-Inter. Cioè, insomma, sto vedendo partite. Non sono d'accordo sullo stereotipo del calcio italiano perennemente in crisi, sempre e comunque. Detto questo, la Champions sappiamo è un'altra categoria, un altro livello. E sarà una 3 giorni molto intensa. Poi, ovviamente, c'è giovedì anche l'Europa League. Insomma, è tutto molto, molto interessante. Molto vivo. A proposito di stereotipi del nostro calcio, avremo purtroppo da affrontarne anche oggi, sì. Poi adesso te lo dico, è 800 24 00 24, signor Arrigo. Oggi è una puntata speciale, Pier, però, perché facciamo un esperimento. Sì. Dopo le 15, visto che la Champions è un apostrofo rosa tra un Lotito e un Sacchi. Sì. Allora noi abbiamo convocato Andrea Bodi, che è uno dei protagonisti, certo, di tutta la vicenda, delle vicende di questi giorni, alle 15. Alle 15.30, se voi chiamate, prenotatevi già 800 24 00 24 oppure scrivete su Twitter, @ tutti convocati, potete parlare direttamente con lui. Noi non facciamo filtri, no, beh, questa, non abbiamo posizioni. È il marchio di fabbrica, diciamo, di Radio 24. E quindi vi facciamo parlare direttamente con lui dalle 15. 800 24 00 24, magari chiama Lotito, magari chiama Tavecchio, non lo so. Ve lo faccio sentire, Sacchi, però ve lo faccio sentire, diciamo, dall'inizio alla fine, così che sia chiaro qual è il suo pensiero. Lui dice: mi vergogno di essere italiano, ci sono troppi stranieri già dalle giovanili. Io mi vergogno di essere italiano, ma anche voi vi dovreste vergognare, perché per avere successo siamo disposti a vendere l'anima al diavolo. Non abbiamo una dignità, non abbiamo un orgoglio italiano. Ci sono squadre con 15-16 stranieri, quando si mette, e ci sono tutti questi perché si mette il business al primo posto, e quando si mette il business al primo posto il calcio non può aver successo. E poi quell'altro passaggio, ecco, quello un po' che più complicato, sta facendo, diciamo, il giro del mondo sull'offesa del calcio italiano per i giocatori di colore. Oggi vedevo il torneo di Viareggio. Io non sono razzista, ho avuto Riker, però vedere così tanti giocatori di colore, vedere così tanti stranieri, beh, è un'offesa per il calcio italiano. E poi chiude il discorso, lui è stato in tanti posti, è stato anche al Real Madrid e fa questo paragone tra il nostro calcio e il calcio spagnolo. Io sono stato al Real Madrid, avevamo i giocatori più famosi del mondo, i giornalisti e i tifosi ci criticavano perché non c'erano ragazzi della cantera e spagnoli. Quanto mai in Italia succede questo? Siamo proprio un popolo, non dico quello che penso, ma che non ha dignità oltre a non avere orgoglio per il proprio paese. Questo è Arrigo Sacchi, 800 24 00 24. Pier. Ma insomma, hai fatto innanzitutto benissimo e io ti faccio i complimenti perché l'hai redatta tu, no? Nel senso che tante volte poi Giorgio De Luca, Daniele Bonamici. Sì, allora faccio i complimenti a Bonamici e De Luca, per carità. Tante volte c'è la tentazione di scegliere il titolo, no? Di scegliere i 5 secondi che fanno più scalpore. Allora, è evidente che quel passaggio lì sui giocatori di colore è politicamente scorretto. Detto questo, ascoltando il discorso di Sacchi, io non penso che lui sia un razzista. Ecco, sentendo tutto il discorso così come l'abbiamo sentito, io non penso che lui sia un razzista. Torniamo al discorso che facevamo con Tavecchio, e a me sembra che giustamente, lo sottolineo tre volte, giustamente, negli ultimi tempi ci sia una maggiore attenzione a ciò che politicamente è corretto. Quindi anche bisogna nel stare linguaggio. Molto quindi attenti, bisogna stare molto attenti. Molto. E soprattutto persone, diciamo, un po' meno giovani, cresciute invece con una cultura un po' diversa, fanno queste scelte. Volate, inciampano. Io sono convinto che Tavecchio non sia razzista, però vale per Sacchi. Però sono convinto che quella cosa di tipo Ba era indifendibile, e la stessa cosa secondo me in qualche modo riguarda Sacchi. È chiaro, il ragionamento l'abbiamo capito, non è un ragionamento contro, anzi lo dice addirittura, dice io ho avuto Rijkaard, Gullit, figuriamoci. Sì, anche se poi dobbiamo essere coerenti, lo diremo, poi ci raggiunge Paolo Condò, che conosce il mondo molto meglio di noi, anche perché è più anziano di noi. Ma è un complimento, eh. Cintura nera di Frecciavada. Noi dobbiamo anche essere coerenti, esattamente come non accettavamo che Tavecchio ci dicesse ho costruito 3 ospedali, io non sono razzista, come ma prova di scarico per dire hai sbagliato, ti devi scusare. Secondo me lo stesso ragionamento va applicato anche ad Arrigo Sacchi. No, non ci sono dubbi, non ci sono assolutamente dubbi. Ma ripeto, anche se questa chiaramente la cosa di Tavecchio era più scabrosa, secondo me, perché era un discorso pubblico. Era un discorso di insediamento di una persona che si stava candidando a una carica, e quindi c'è un discorso di essere, come dicono gli inglesi, unfit, cioè non esattamente il massimo per poter prendere un ruolo e per poter rappresentare un intero movimento calcistico. Qui c'è la frase di un allenatore, quindi è una frase, una dichiarazione pubblica. Non è la telefonata privata di Lotito l'altro giorno, è una dichiarazione pubblica, ma comunque non è un discorso ufficiale. Tra l'altro, quindi, di un uomo che non ha incarichi in questo momento ufficiale, perché non è che si sta candidando per fare niente. Quindi, secondo me, è un po' diversa rispetto al discorso di Tavecchio. Il punto fondamentale, però, è quello: ci vuole oggi un'attenzione maniacale. Maniacale. Sì, insomma, voglio dire, a me non. Cioè, io esattamente come non avrei detto tipo Ba, non avrei mai fatto. Non avrei mai usato le parole che ho usato Sacchi, ecco, anche perché fuori ci giudicano, perché come funziona, poi magari ci inciamperò anch'io un giorno, ma non credo assolutamente che Sacchi sia razzista. Su c'è il traffico, c'è il traffico. 800 24 00 24, ha scritto un amico via SMS, Mario, al 349 238 6666: voglio proprio vedere se sarete abbastanza cattivi con Abodi dopo il casino di quest'estate, se lo merita. Amici, dovete chiamare, prenotarvi, perché dalle 15, dopo il GR delle 15, chiamate fino alle 15:30, certo. E lo dite voi. Va bene? Traffico. Certo. Tiki-taka, allora, amico mio, tiki-taka, e certo, amico assolutamente mio. Dal mitico Pardo. Tutti convocati. Perché poi gli altri fuori ci giudicano. Intanto saluto Paolo Condò. Ciao Paolo. Ciao Paolo. Eccomi qui. Ciao a tutti. Ciao Pierre. Ciao. Sì, poi parliamo anche dell'apostrofo rosa tra un Lotito e un Sacchi, che è la Champions League. Dove sei? Dove sei andando? Interessa. No, faccio la Juve la settimana prossima. Ah, ok. È a riposo. Sì. Perché dicevo, poi gli altri fuori ci giudicano. Io vi leggo qualcosa che, ad esempio, Gary Lineker, che è famoso ex giocatore inglese, oggi commentatore in televisione, un tweet: questa mattina ci sono troppi razzisti nel calcio italiano. Oppure ha scritto anche Mino Raiola, che ha detto: nel mondo non ci sono stranieri ma solo persone, il calcio italiano è nella merda, anche per questa idea che si porta dietro. Tu che idea ti sei fatto, Paolo, della questione Sacchi? Che è in corso in uno scivolone terribile. Lo conosco da tanti anni e so che è vero che Sacchi non è una persona razzista, però gli è scappata la gaffe che di questi tempi non deve scappare, questo è ovvio. Però ripeto, conoscendolo da molti anni posso testimoniare che il razzismo è una cosa veramente lontana dalla sua idea. Credi farebbe bene a chiarire, a scusarsi, o basta quella cosa che ha fatto filtrare: no, ma io non sono razzista, ho avuto Rijkaard, ho avuto Gullit, che è una spiegazione che però per inteso, l'abbiamo detto, sì, quest'estate, no, certo, non abbiamo accettato per Tavecchio. No, beh, però sai, le persone sono fatte anche dalla loro storia, e la storia di Sacchi è una storia completamente diversa da quella di Tavecchio. Comunque, in ogni caso, la gaffe c'è stata, la frase razzista c'è stata. Sarebbe bastato che dicesse: ci sono troppi giocatori stranieri. Ecco, io da questo punto di vista non sono d'accordo con Raiola. Secondo me, almeno il calcio bello, il calcio che Io ricordo che quello che piaceva a me moltissimo era quello con i tre stranieri. Sì, per i tre stranieri, è vero. Quelli sono stati gli anni più belli del campionato italiano, del calcio italiano, forse anche perché era un calcio italiano ricco e i tre stranieri erano tutti fortissimi. Certo. Sì, che poi il ragionamento mi sembra che faccia presa. Io sto leggendo anche alcuni dei messaggi che arrivano. Ci sta, sono totalmente d'accordo con Sacchi, c'è zero cultura sportiva in Italia perché ci sono giovanili, il ragionamento ci sta ed è tutto in assoluta buona fede, dai. Poi qua adesso siamo questi qui, democristiani, siete un po' di qua, un po' di là, non avete le palle di criticare, ma no, le palle ce l'abbiamo, però siccome l'abbiamo sentito Sacchi, l'abbiamo sentito tutto, io penso che appunto sia uno scivolone lessicale, uno scivolone di proprio di parole. Se lui avesse detto ci sono appunto troppi stranieri, troppi giocatori che non sono eleggibili per la nazionale nel settore giovanile, già avrebbe detto una cosa completamente diversa. E secondo me l'unico quello che l'ha portato fuori strada è che ha veramente aveva il ricordo fresco di una partita con tanti giocatori di colore al torneo di Viareggio. Se non avesse visto quella partita non avrebbe usato quell'espressione lì, però vabbè, insomma è chiaro che ripeto quello che ho detto prima e che certamente anche voi condividete, e le persone hanno una loro storia, e detto che quando uno fa allora, quando dico che le persone hanno una loro storia, distinguo che la stessa frase in bocca a uno può essere una gaffe, come io ritengo sia stata quella di Sacchi, e in bocca a un altro è una frase razzista. Non è che è diverso perché Sacchi è nostro amico o altro, no, certo. È perché Sacchi lo conosciamo, certo. Lo conosciamo da tanti anni, abbiamo condiviso tanti viaggi nel mondo, in paesi lontani, così, e io conosco l'atteggiamento di Arrigo nei confronti delle realtà diverse dalla nostra, anche dal punto di vista culturale, quindi non ho nessun dubbio sul fatto che non si era. No, ma poi Paolo, posso dire, io penso sempre che questo in generale in assoluto, visto che è un'epoca molto veloce di dichiarazioni continue, di comunicazione H24, quello che conta è quello che una persona poi chiarisce di voler dire, cioè la gaffe, lo scivolone rimane, ma il punto fondamentale è capire che cosa c'è dietro, anche perché i razzisti ci sono, fanno campagna elettorale e hanno anche un certo seguito, purtroppo, no? Cioè ci sono interi movimenti in Europa che hanno anche purtroppo, dal mio punto di vista, delle percentuali alte che buttano benzina sul fuoco del razzismo. Sì, quindi, non è certamente il caso. No, ma voglio dire, cioè, secondo me uno può fare, ma neanche di Tavecchio. Chiamiamo le cose con il loro nome. Se Borghezio dice una cosa, certo. Io so che cosa intende Borghezio. Lo so che lui ha quell'idea lì, sa chi non è Borghezio. Sì, possiamo dirlo, no, è anche la differenza tra chi dice non mi piace la nazionale con Tiago Motta, gli Amauri e gli altri, c'è chi dice no, Balotelli no perché non è italiano, magari c'è sì, un sottopensiero di un certo tipo. Paolo, però parlava Arrigo Sacchi anche del periodo d'oro in cui le italiane vincevano tutte le coppe, oggi ci siamo, io leggo alla prima pagina della Gazzetta, firma Paolo Condò, occhio al Barcellona perché Messi è tornato ed è super. Oggi non lo vediamo Messi, non vediamo il Barcellona perché c'è Paris Saint-Germain-Chelsea, ma davvero tu pensi che il Barcellona si sia risvegliato dopo la pausa invernale quasi favorito? Ma io credo che il Barcellona abbia attraversato un momento di crisi molto profonda, data certamente da alcuni metodi di Luis Enrique ai quali i giocatori del Barcellona non erano abituati, o più probabilmente anche, attenzione, non voglio dare tutte le colpe a Luis Enrique, al fatto che Messi non è più il ragazzino umile, obbediente e rispettoso che era ai tempi di Guardiola. E il tempo è passato, ha vinto i suoi palloni d'oro, ha guadagnato i suoi milioni e non ha certo più quella disponibilità. Detto questo, per me prendere Messi e metterlo in panchina, come era successo alla partita contro la Real Sociedad, mettere in banchina Messi e Neymar è da matti, non è una cosa normale. Sì, ho letto anche sempre sulla Gazzetta, mi spiace continuare a citarla, Segurola, che diceva guardate che è cambiato, lui non fa più 50 metri col pallone come faceva un tempo, adesso li fa senza, gioca più con la squadra. Sì. È un Messi diverso, forse, anche perché passano gli anni. È un Messi diverso, ma naturalmente è un Messi che ha perso, che da una parte ha giocato e è arrivato fino in fondo mondiale, fino alla finale, e quindi qualche cosa ha fatto in un mondiale. Dall'altra parte avete visto quella stupenda fotografia che ha vinto il World Press Photo per lo sport, no? Così vicino alla coppa, eppure non così lontano, prendere senza così lontano, così vicino, come direbbe Wenders. Esatto. Assolutamente. Quella secondo me è una cosa che lo ha segnato. Quella è una cosa che ha cambiato diversi parametri in questo momento della sua esistenza. E dopo questo periodo di crisi lui ha ripreso adesso a giocare in una maniera fantastica, anche perché nel primo anno io ho assistito a molte partite del primo anno della coppia Messi-Neymar, e Messi a Neymar non la passava, cioè gli stava sulle palle, era del tutto evidente, forse non tanto il ragazzo, adesso si stanno un po' integrando la situazione, altro che essi si sono integrati, adesso giocano come se fossero veramente una coppia. Adesso manca il terzo da integrale, che è Suarez, che qualche difficoltà la sta trovando. Pian piano si sta inserendo anche lui. Paolo, ti posso chiedere? Sì, prego. No, prego, prego. Dicendo, Messi e Neymar che giocano assieme, felici di giocare assieme, è una cosa alla fine del mondo. E sta succedendo. Ti posso chiedere cosa ti aspetti stasera da Paris Saint-Germain-Chelsea? Mi aspetto una partita... Allora, in assoluto mi aspetto la qualificazione del Chelsea nelle due partite. Mi aspetto un tentativo disperato del Paris Saint-Germain, che non è in un gran momento, di tenere la gara viva almeno fino, come era successo l'anno scorso, fino alla partita di ritorno. Però secondo me già stasera il Chelsea non perde. Comunque, semifinale anticipata, non diciamo finale, possiamo chiamarla semifinale. Sì. Quarto di finale anticipato. Grazie. Perché Paolo. Semifinali, le quattro delle semifinali sono Chelsea, Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco. La Juventus non la citiamo nemmeno, però può avere la fortuna. Attenzione. Ci sono dei sorteggi ancora possibili, c'è quella Arsenal Monaco oppure Basilea Porto, che ti dicono che se sei bravo a far fuori il Borussia Dortmund c'hai ancora la possibilità di un sorteggio buono per arrivare in semifinale. Assolutamente. Guarda, la Champions non è il campionato. La Champions ha degli equilibri molto mutevoli e l'incidenza dei sorteggi, della condizione, dell'episodio è molto più alta. Quindi io, la Juve chiaramente non è la favorita, non è la squadra più forte d'Europa, però secondo me le prime quattro può arrivare. Assolutamente. Non precludiamoci il sogno. Grazie Paolo. Ciao. Grazie a Paolo Condò. Scrivono di tutto, sì, tutto il contrario di tutto. Intanto diamo un aggiornamento rapidissimo sul Parma, perché in realtà adesso c'è la borsa, dopo la borsa arriva Marco Bellinazzo, chiacchieriamo un po' anche di Parma e di Milan. Manenti è a Nova Gorica, non sono ancora arrivati i soldi, ma potrebbero arrivare. Tutti convocati. 800 24 00 24, ve lo ricordo, potete già prenotarvi dalle 15, avete a disposizione uno dei protagonisti di tutto il caos di questi giorni, Andrea Abodi. Oppure quindi, mandarci messaggi se avete qualcosa da dire, noi glieli riportiamo, ma se volete telefonate, vi prenotate e parlate direttamente con lui. Dieng dalla provincia di Treviso. Dieng. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io voglio solo dire uno poi, perché il signor sa che l'ha fatto proprio fuori dal vaso. Sì. Perché il problema del calcio italiano, se vogliamo mettere la polvere sotto i tappeti, va bene, però non è problema degli immigrati che giocano, perché noi che siamo qua in Italia, i nostri figli nati qua, ma dove vanno a giocare a calcio? Ma certo, ma questo... scusami che finisco dopo. Allora, svuotiamo le fabbriche, i centri di cura e mandiamo tutti quanti a casa. Se vogliamo, non vogliamo risolvere il problema del calcio italiano, no. Allora non diamo la colpa all'immigrato perché sono tanti o qualche altro, perché se il presidente della Federcalcio, che vende alla Federcalcio, alla Lega Pro, i suoi libri per i suoi propri interessi, i presidenti che truffano le squadre e fanno fallimenti, ma allora il problema del calcio italiano, ma scusatemi, posso dirle una cosa? Prego. Penso che lei sia italiano, punto. Cioè le persone che vivono ovviamente, onestamente, civilmente nel nostro paese sono italiani, anche se hanno un'origine. Guardi, su questo proprio non credo ci sia una discussione. C'era un bel messaggio che era arrivato prima di un ascoltatore, ma adesso l'ho perso, che dice sì, se vado a Bergamo e guardo le persone direi che un buon 40% sono stranieri, perché le giovanili dell'Atalanta non dovrebbero rispecchiare più o meno questa composizione, ci scrive amici. Quello che stai dicendo anch'io. Diverso, secondo me, è un difetto del calcio italiano a ogni livello, che è quello di andare a cercare il colpo facile, di andare a cercare a tutti i costi l'intermediazione all'estero, quanta il talento. Esatto. Questo vale per piuttosto le giovanili. Che costruire in loco un vivaio. Ma in questo vivaio, poi, se le persone hanno la pelle un po' più chiara, un po' più scura, non cambia niente. Assolutamente non cambia niente. Questo... Ma scusami e finisco, ma secondo me giocano i più bravi. Se uno è bravo, gioca. Se non è bravo, anche se arriva dalla Cina, non è un buon giocatore, non gioca. Anche lì, allora, la colpa non è del ragazzo straniero che è arrivato, è del presidente, allora, che fa proprio che fa soldi, che è andato a prenderlo. Poi credo che comunque Sacchi facesse un discorso di specificità sul futuro del calcio italiano, anche la nazionale, e questo poi diventa un problema oggettivo. Alberto da Roma, Alberto. Arrivato Benignazzo. È arrivato perché adesso abbiamo tutti gli aggiornamenti su Parma e Milan. Alberto, prego. Allora, buonasera e grazie, come si dice, di avermi convocato. Io vorrei spezzare una lancia a favore di Sacchi e di quanto ha dichiarato, pensando di aver intuito, non lo so, il suo pensiero. Dunque, il problema non è che l'immigrato non possa giocare, il problema è che le squadre italiane importano non immigrati, pagano fior di milioni persone che sono argentine e di altre nazioni assolutamente degne. Ma mentre una volta Maradona insegnava poi a tutta la squadra a giocare a pallone, questi vengono, stanno 6 mesi e se ne vanno. E questo è il problema. Non stiamo parlando del ragazzo immigrato che giustamente gioca nella squadra giovanile italiana, certo. E non c'è dubbio. Sì, anche se credo che Sacchi si riferisse proprio a quello. Sì, a proposito dei settori giovanili. Però c'è andato di fatto che ogni volta che andiamo ai mondiali, anno dopo anno, facciamo sempre peggiori figure. Vabbè. Perché non abbiamo giocatori nostri allevati da noi da portare in nazionale. Però questo sinceramente due mondiali fa abbiamo vinto noi adesso. Tre mondiali. Io sono napoletano, per cui siamo attaccati alla bandiera. Dopodiché vedo che nel Napoli non c'è un giocatore napoletano, o forse ce n'è uno, Insigne. Ma sta male e così via. Ma che Napoli è? Cosa mi rappresenta? Sì, però questo vale in tutto il mondo, insomma, non è che Lazio anche Real Madrid Lazio oggi ha 3-4 titolari spagnoli, giocatori del nord di Londra, cioè, eppure non si lamentano. Il mondo è cambiato, che poi ci può piacere di più, ci può piacere di meno, si può essere tradizionalisti e ricordare il passato, il pallone alle 2:30 di cuoio, cioè, il mondo è cambiato a ogni livello. La velocità di comunicazione, oggi fai un tweet e ti leggono dall'altra parte del mondo, cioè è cambiato tutto. Quindi da questo punto di vista la velocità di spostamento e la facilità di spostamento di mezzi e persone rispetto al passato è cambiata in maniera clamorosa. Secondo me è un'opportunità, poi certamente qualche rischio c'è sempre, insomma, su questo non c'è discussione, però la chiave secondo me è investire nei vivai, cioè investire su delle strutture che possano diventare degli asset. Qui c'è Bellinazzo, ho detto bene, che negli anni funzionano e che ti portano ad avere poi veramente le plusvalenze, non cercare il mordi e fuggi, il colpo ad effetto, spendi più soldi, li dai al procuratore, all'intermediario e poi molto spesso è un flop. Sì, ti leggono anche a Nova Gorica e a Parma. Qualcosa riguardo al bonifico? Stiamo lavorando. È ancora lontano la fumata bianca? No. Fiducioso? Fiducioso. Ma qual è la causa ostativa? I tempi tecnici vanno rispettati e lo sapete meglio di me, perché quando ricevete uno stipendio sapete che lo fanno di ieri per dopodomani. Comunque stiamo cercando di accelerare. Fiducioso? Sì, grazie. Secondo me da questo punto di vista ieri è stato dato dei riferimenti del bonifico, perciò ora in mattinata ci diranno. Ancora non so nulla. Ma tu speri, insomma, ci sia una svolta? Siamo fiduciosi, che possiamo fare? L'unica cosa che possiamo fare. Ma metterete in mora la società? Avete fatto, so che... Dipende da cosa ci diranno oggi. Voi che tempistiche vi siete date? Entro quando? La scadenza era oggi, vediamo, non sappiamo ancora nulla, quindi... E noi abbiamo convocato Marco Bellinazzo. C'è l'aggiornamento di... Siamo sulle tracce del delle bonifico. 13.39, ieri sera c'è stato questo importante passaggio del bonifico internazionale, dice Manenti, però è meglio se vado a seguire la cosa di persona là. Sì, ribadisco, i bonifici sono arrivati, il pagamento è stato eseguito, ma non dobbiamo perdere nulla e vado là apposta per snellire ulteriormente la cosa. Questo ha dichiarato Manenti in partenza da Parma verso Nova Gorica. Dove quindi sarà adesso? Tutto, adesso non so, al sarà casello di Cormons. Voglio dire, la necessità di questo viaggio per snellire i bonifici internazionali mi sfugge. Come mi è proprio poco, nell'epoca della velocità, nell'epoca, no? Della velocità, basta un click del trading online, si va sul posto per accelerare, magari prenderà gli assegni e fisicamente li porterà ai giocatori, non so cos'altro pensare. Sì, anche se questa immagine passata questa mattina di Manenti che ieri sera dopo cena da casa sua con l'home banking fa un bonifico da 30 milioni ha un po' colpito. Sì, noi che siamo abituati alle bollette, sì, a casa, sì, con l'home banking, sai, già con qualche difficoltà. Il problema vero qui è che c'è una realtà che è quella della Mappi Group, che dovrebbe sostenere insieme a non si sa bene quali altri imprenditori stranieri questa nuova proprietà, e che da sola non ha le risorse necessarie per far fronte a 15 milioni, che è la cifra minima che servirebbe per appianare questo buco, e parlo degli stipendi, diciamo, di questo trimestre, le ritenute IRPEF e quant'altro. Quindi credo che al di là delle chiacchiere, delle fumate grigie, delle frasi a effetto tipo solo la morte certa che ho sentito pronunciare allo stesso momento. Sì, ma anche le percentuali, sì. 99, 90. Qui si stia andando... A me quello che sfugge, ma non so perché tante volte nel passato ci sono stati dei flop, è veramente qui prode, cioè se uno non c'ha i soldi, cioè, ma c'è stato Barton a Bari nel passato, alla fine non hai neanche un beneficio mediatico, perché ce l'hai, Manenti è rimasto a casa sua, ce l'hai per 5 giorni il beneficio mediatico, no, poi il beneficio è tutto da discutere. Il dubbio sull'operazione è partita già dall'accordata russo-cipriota, è continuato con questo fantasma di Taci che c'era, sì, e non c'era, che si presentava al calciomercato e che poi in realtà non ha mai formalmente preso possesso del Parma, se non presso un notaio che avrebbe e spero abbia fatto tutte le dovute segnalazioni antiriciclaggio. Dopodiché ci troviamo in una situazione in cui un soggetto sconosciuto al calcio, anzi noto per aver tentato di prendere in vano altre squadre come il Brescia, si presenta facendo riferimento, ripeto, a investitori, a collegamenti russi, e tra l'altro la stessa cosa era stata fatta l'anno prima dallo stesso Mamenti, quando il Nova Gorica ha perso la sponsorizzazione di una catena di alberghi e di casinò che a Nova Gorica sosteneva il club. È venuta meno questa sponsorizzazione, si è presentato Mamenti dicendo di avere collegamenti sempre con supposti oligarchi russi. Si trattava nel caso di Kerimov dell'Angie, ovviamente poi soldi non se ne sono visti, e quindi si ripete di fatto una situazione in cui proprio col Nova Gorica il Parma di Ghirardi aveva creato delle collaborazioni, di fatto ne aveva preso il controllo mandando addirittura l'allenatore, sì, Apolloni, più diversi giocatori. E mi sembra strano che proprio ora da Nova Gorica arrivi chi deve salvare il Parma. Abbastanza clamoroso. Allora a questo punto io ribadisco, sono settimane che lo dico, Procura della Repubblica e Guardia di Finanza, oltre che la Covisoc, che in questi anni avrebbe dovuto accorgersi per esempio di un indebitamento che è cresciuto in 8 anni del 1200%, non del 100%, del 1200%, da 16 a 197 ma magari milioni. In futuro arriva il modello inglese, quello della Premier League, anche per noi. A proposito di futuro, c'è anche chi dice, guardate che al Parma a questo punto conviene fallire, un fallimento pilotato, riparte dalla Serie B, magari qualche creditore ci lascia le penne, però è già successo. Se retrocede però parte dalla C, giusto? Cioè dalla Lega Pro. Il Lodo Petrucci è stato abolito, abrogato nel 2014. Per cui teoricamente un fallimento dovrebbe portare alla cancellazione dal calcio professionistico e a un ritorno, diciamo, al calcio dilettantistico. come è accaduto per il Siena. Certo. Quindi è evidente che magari qualche imprenditore italiano serio, magari uno di quelli di cui si era fatto il nome, come certo. Barilla, e che subito ha smentito in questa situazione, potrebbe avere magari più convenienza a ripartire dai dilettanti, a ricostruire un progetto serio nel tempo. Sì, anche perché poi la storia dalla Florenzia Viola in poi, secondo me, racconta questo, no? Che tante volte è meglio avere una prospettiva, una speranza, una dimensione più piccola, però più pura, e poi si riescono a fare in tempi abbastanza brevi cose. Il problema, Pier, è che il Parma era stato preso da Ghirardi pulito dai debiti, certo. Nel senso che il Parma della Parmalat di Callisto Tanzi, che aveva quasi 300 milioni di indebitamento, ha visto finire questi soldi, questi debiti, nella Bet Company, per cui di fatto la squadra che ha preso Ghirardi era libera da pendenze. Era sana, cosa che oggi non accade. Questo ascoltatore che ci scrive: Manenti ha ottenuto un prestito che prima non gli davano, adesso è scappato in Slovenia. Magari adesso vedremo, insomma. Poi c'è anche chi chiede se ci aspettiamo il Parma in campo domenica. Io mi sento di dire, credere che il Parma sarà in campo. L'altra domanda che tanti si fanno: cosa succede se il Parma salta e non chiude la stagione? Questa è la risposta, gliela diamo. Succede che perde le prossime 15, 14, 13, quelle che saranno partite 0-3 a tavolino, ma i punti fatti da tutti dalla prima giornata fino al momento in cui salta restano buoni. Diverso sarebbe stato se fosse saltato nel girone d'andata, allora sarebbe stato annullato, sì, tutto. Io credo poi che dal punto di vista, diciamo, fallimentare, che con la messa in mora dovrebbero scattare le procedure con la nomina, diciamo, di un commissario, con una sorta di amministrazione controllata, per assicurare almeno la continuità aziendale fino alla fine del campionato. E dopodiché a quel punto il fallimento avviene a fine del campionato o si aspetta l'intervento. Sì, bisogna anche vedere ovviamente dal punto di vista tecnico con quali garanzie, nel senso che per esempio già il Parma ha perso Cassano, per dirti, ha perso Felipe, ha perso giocatori che c'erano. È chiaro che se ci dovesse essere una messa in mora da parte della squadra principale, sì, poi magari la continuità la dai con i ragazzi, ma è ovvio che perdi 7-0 tutte le partite. È vero che ne ha vinte così poche fin qui, sì, il Parma. Paradossalmente, insomma, le sfavorite potrebbero essere l'Inter, che ha perso i tre punti, la Fiorentina, la Roma che ha pareggiato l'altro giorno. 800-24-0024. Poi parliamo di un altro che sta facendo discutere molto, che è il thailandese che vorrebbe il Milan. Traffico. Dove andiamo? Andiamo a rubare biciclette, come dicono qua a Milano. Tutti convocati. Pagliazzo ha l'aria molto furba, ha l'aria furbissima Milan, quando parla di B. Tae Chubol. Non è lui? Beh, diciamo che è bastato poco per capire che non si trattava di un acquirente sostanzialmente credibile. Anche se lui oggi su Repubblica dice: la mia non è beneficenza, il calcio italiano ha un enorme potenziale, io non millanto capitali, la proposta è seria e solida, tratto da ottobre è arrivato il momento di chiudere. Sì, non c'è mai stato nella storia un potenziale compratore che dice: la mia proposta non è solida, questo va detto, insomma. Sì, di fatto ci sono, come l'oste, quello che si è appurato, che è possibile appurare ovviamente dall'Italia, che comunque il suo fondo di private equity ha risorse per una novantina di milioni. Ha avuto tutta una serie di problemi di insider trading e vicissitudini giudiziarie di vario tipo, e quindi non è ciò che come dire, i tifosi milanisti sognerebbero. Non è Altani, non è Almansur, non è Abramovic. Certo. Sì, non è neanche Wang Jianlin, che è un altro dei nomi che è stato fatto, e anche Bogarelli ne ha parlato ai nostri microfoni settimana scorsa. I cinesi. Allora, io posso dire questo, che su queste piste stavo lavorando da qualche settimana, perché la novità di queste settimane è che per la prima volta Silvio Berlusconi ha dato mandato di vendere il Milan. Se ne è parlato tanto, lo si è detto tante volte, c'erano sicuramente delle chiacchierate fatte con banche d'affari, ma stavolta è arrivato dal proprietario del Milan, indipendentemente da quelli che sono i contrastanti interessi dei figli della Fininvest e quindi di Barbara dall'altro lato, è stato dato mandato per vendere il Milan. Tre settimane fa c'è stata una cena alla quale era presente Berlusconi, non i figli, e Fedele Confalonieri, che è quello che spinge di più per la vendita del Milan. È stata presentata la proposta più seria trovata da questi intermediari, che è pari a 970 milioni. Che non sono pochi. Che no? Non sono pochi. No, anzi, credo sia fantascientifica come valutazione, considerati i prezzi di questo periodo. 970 milioni per il Milan. L'offerta viene da un fondo di Singapore, di cui fanno parte una serie di persone sulla cui identità io sto ancora lavorando e quindi non sarebbe serio parlarne, ma posso dire che sono amici del presidente dell'altra squadra di Milano. Quindi il prossimo derby. Lo facciamo a Giacarta direttamente. L'offerta è stata rifiutata. Silvio Berlusconi ritiene che il Milan valga di più, 1,5 miliardi, cioè più del Manchester United quando è stato venduto. E a questo punto è chiaro che siamo all'interno di una trattativa in cui si lancia e si rilancia. La novità poi importante dell'ultima settimana è questa, che l'approdo in Italia di Jan Lin e di Vanda Group, che ha acquisito Infront, ha aperto un nuovo scenario, per cui essendo uno degli asset fondamentali del gruppo Vanda la costruzione di centri commerciali, alberghi di lusso, si innesterebbe benissimo nel progetto del nuovo stadio. E quindi tramite Infront e tramite anche Bogarelli c'è un discorso aperto, quindi un secondo dossier che potrebbe realizzare il sogno di Berlusconi di cedere una minoranza del club senza perdere il controllo affidando a Vanda i lavori dello stadio. Possiamo dire una cosa agli amici da casa: le pause di Marco Belinazzo non sono una questione di scena, sono bisogna centellinare le parole per raccontare la notizia. Qua mi sembra che siamo di fronte a che è stata data a notizie e indiscrezioni molto molto importanti. Manca nome, cognome, però cominciamo anche a tratteggiare dei profili. C'è una correlazione con questo 7,76% di Mediaset venduto l'altro giorno? Beh, questo direi di sì, nel senso che il Mediaset sta cercando liquidità, c'è anche la possibilità che venda, che debba vendere la sua partecipazione in Mediolanum per trovare poi diverse intese nell'ambito dell'industria televisiva, perché ha aperto il capitolo dei diritti TV di Champions e dei diritti TV nazionali nel rapporto con Sky. Sappiamo che Mediaset si è esposta molto avendo acquisito dall'anno prossimo entrambe le esclusive, e quindi cerca alleanze, ed essere forti finanziariamente significa anche avere un maggiore valore contrattuale. L'ultima curiosità ce l'ho io: ma quanto vale esattamente il Milan? Al di là che Berlusconi la valuta 1,5 miliardi, c'è questa stima di Forbes che era tra i 600 e i 700 milioni di euro. Quanto vale? Io credo che il Milan, che è la squadra che ha il maggior appeal internazionale dell'Italia, perché più della Juve, che ha il maggior seguito all'estero, anche se c'è poca consapevolezza proprio per ragioni di cattivo marketing che è stato fatto dalle squadre italiane, la squadra che ha vinto di più a livello internazionale negli ultimi 25 anni, è una squadra che può valere intorno ai 750 milioni di euro. Quindi no, siamo... i 9,70, se tu fossi, diciamo, i 9,70 a quella cena con Silvio, gli diresti, gli porteresti Galliani direttamente. Direi che chi era presente ha insistito parecchio affinché se accettasse. Ricordiamo che il Milan ha un indebitamento intorno ai 250 milioni, un deficit che dovrebbe andare sui 50 milioni sul 2014 e altrettanto importante quindi sul 2015. Quindi bisognerebbe considerare anche l'indebitamento, assolutamente, cioè se io offro, sì. No, io. Se un Capuano che è ricco offre 9,70 vuol dire che sta offrendo 1,220, no? No, se offri 9,70 più 2,50 ti compri quello che c'è dentro la certo, società nel bene e nel male, quindi anche i debiti, a meno che non vengano fatte pattuizioni di tipo diverso. Insomma, questo è lo stato dell'arte. Tanto io vi dico che il Bologna ha preso un punto di penalizzazione per mancato pagamento dell'IRPEF. A proposito del nostro scassatissimo calcio, io do 30 secondi ad Enrico da Milano perché è lì che aspetta. Enrico. Sì, grazie per la convocazione. Prego, 30 secondi. Io sì, volevo ritornare sul discorso di Arrigo Sacchi portando una testimonianza. Mio nipote gioca nelle giovanili di una grande squadra e c'è in prima media. La cosa più triste è vedere ragazzi che giocano in queste categorie ma che non hanno la stessa età, giocatori stranieri, perché non riescono giustamente a vedere nati in quell'età lì. Questa è la cosa che secondo me è aberrante. Sì, può capitare, Enrico, però io eviterei di dire che questo è il problema. Poi magari per qualcuno c'è qualche fatica a ricostruire l'anagrafica quando arrivano in Italia. Ci fermiamo qui, ricordo, dopo il GR delle 15 prenotatevi 800 24 00 24, filo aperto con Andrea Bodi, resta Pierluigi Pardo, resta Marco Bellinazzo, perché se avete delle curiosità sul Milan ne parliamo anche, le avete sentite le notizie. GR 1 2 3, che dire, arrieccici. Tutti convocati. Pierluigi Pardo, Marco Bellinazzo. Sì, è andato in scena un dibattito sul Carnevale di Pavia. Sì, che anche un momento, diciamo, perché ci sono rappresentati Nord, Centro e Sud Italia in questo momento. Sì. E io e Bellinazzo ci siamo un attimo alleati, perché qui praticamente è stata una reazione un po' ilare, diciamo. Ilare, perché abbiamo scoperto che non lavora nessuno al Carnevale di Pavia. Stiamo scherzando, adesso ci arriva. Però non lavora nessuno che il Carnevale di Pavia. A Roma e Napoli si lavora, no? Poi c'è quello di Venezia, quello di Viareggio, non ho mai sentito quello di Pavia. C'è anche il Carnevale di Pavia. Saluto Andrea Bodi, presidente, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, io saluto voi e tutti i radioascoltatori di Radio 23. Conosceva il Carnevale di Pavia, presidente? No. Io ieri ho incrociato un pezzo di Carnevale di Viareggio, piuttosto. Bello deve essere. Però tra un po' ma nel senso sportivo del termine, quindi la finale della Viareggio Cup, della Coppa Carnevale, sì, quella con tanti giocatori di colore, ne abbiamo parlato. Buoni. Posso fare una domanda dirimente? Prima fammi ricordare le regole d'ingaggio. 800 24 00 24, c'è già chi si è prenotato ma potete andare avanti. Filo diretto con Andrea Bodi, parliamo di Lotito, del calcio italiano, potete dire quello che volete, lui ascolta, risponde. C'è anche chi ha scritto attraverso Twitter le sue domande, @ tutti convocati. Quindi noi siamo qui, prego Piero. No, la mia domanda è questa, sul caso Lotito, perché insomma Lotito dice in questa telefonata: ho detto, se me ne fai salire più di una è un problema dal punto di vista dei diritti televisivi. Sull'interpretazione di questa frase, secondo me c'è tutto l'elemento chiave, nel senso che se è un discorso generico sui massimi sistemi e sui bacini di utenza del calcio italiano è un conto, se invece Lotito è venuto da lei a dirle: oh, mi raccomando, bisogna fare tutto il possibile, siamo chiaramente di fronte a una cosa gigantesca e gravissima. Ci dice la verità? Ma come sempre faccio fatica a non dire la verità, e siamo pienamente nella prima fattispecie, ovvero una valutazione detta nel modo sbagliato, con dei criteri sbagliati, con un modello di calcio che quantomeno non è il mio, non è il nostro. Peraltro non sono neanche convinto che dipenda dalla grandezza dei bacini la certo. qualità di una competizione. Assolutamente. Perché la competizione dipende da tanti altri fattori che rendono sostanzialmente indifferente il meccanismo di promozione e retrocessioni, perché chiunque arrivi da sotto in un modello sano si inserisce in un contesto che crea valore a prescindere. Poi magari ragioniamo anche in generale. Carlo da Salerno. Carlo. Sì, buonasera, eccoci. Grazie per la convocazione. Prego. Allora, prima di intervenire volevo fare gli auguri a Pardo, perché oggi è la giornata mondiale del gatto, e chi meglio di lui è un bel gatto pardone. Va bene, andiamo avanti. Poi, detto ciò, momento istituzionale, presidente, partiamo subito. Molto seri, prego, prego. Molto seri, subito. Passando di Salerno, avendo l'udito come presidente, volevo fare questa considerazione. Io non sono tanto scandalizzato, perché da quando il calcio italiano ha venduto l'anima alle televisioni e si è iniziato a giocare le partite a tutte le ore, in tutti i giorni, addirittura io mi rendo conto, non so voi, che nelle interviste su Sky o su Mediaset, se un allenatore e un giocatore si permettono lievemente di criticare la domanda o il conduttore, vengono subito assaliti come se fosse una cosa di lesa maestà. Ora mi chiedo, prima si è preso i soldi dalle televisioni, e non pochi, se ne sono presi tanti, e poi ci si scandalizza se qualcuno cerca di far capire al mondo del calcio che forse è il caso o di cambiare il modello dalla A alla Z, oppure di continuare su questo. Se dobbiamo continuare su questo, è giusto il discorso di Lotito. Non possono salire due società dalla B alla A che in due fanno, sì e no, 20.000 spettatori. Presidente Abodi, a lei. Beh, allora, prima cosa, sarebbe interessante intervistare, come si suol dire, le televisioni, quindi i loro rappresentanti, direbbero qualcosa di profondamente diverso, ritornerebbero alla qualità del prodotto, chiamiamola così, che per noi è la qualità della nostra passione, per loro è la qualità del prodotto, e non sono convinto che il problema sia il bacino di utenza, può essere eventualmente l'infrastruttura, ma mi sembra che qui anche in Serie A abbiamo tanti stadi, anzi la maggioranza degli stadi, che merita di essere riqualificata, può dipendere da fattori che riguardano l'equilibrio economico, perché società fragili finanziariamente sono società che possono essere permeabili da fattori degenerativi che vogliamo contrastare pienamente, e quindi c'è il discorso delle scommesse, c'è il discorso dei fallimenti, c'è un rapporto diverso con la tifoseria nel senso sano del termine, meccanismi di fidelizzazione, di rispetto, di collaborazione. Per fare il prodotto ci vuole ben altro, non è il problema che salga questo o quello, e negli altri paesi, quelli ai quali dovremmo far riferimento, Francia, Spagna, Germania e Inghilterra, ci sono realtà anche più piccole delle nostre rispetto alla B promosse in A, eppure si inseriscono in un contesto più sano. Allora, vogliamo tendere al meglio o vogliamo comunque vivere o vivacchiare nel peggio? Quindi lei risponde anche a un amico che su Twitter, chiocciola dodicesimo uomo, dice: ma le dichiarazioni di Lotito, che sono contrarie all'etica, hanno un senso almeno a livello economico. Poi io ricordo che esistono anche altri modelli, ad esempio l'Eurolega di basket, che non è un modello completamente aperto, presidente. No, ma non è un modello calcistico, non è neanche un modello europeo. Quindi dobbiamo soltanto scegliere da che parte stare, perché poi noi quando facciamo le comparazioni, non soltanto calcistiche ma anche di sistema paese, guardiamo agli altri e un po', non dico che ci vergogniamo, ma certamente non siamo soddisfatti. E allora cerchiamo di capire anche quali sono le ragioni per le quali noi dobbiamo essere per forza originali. Il modello calcistico è un modello aperto, quello che manca è un processo di selezione che accompagni quello sportivo con altri processi di selezione, dai dilettanti ai professionisti a salire. Cioè, il tema vero è che per diventare professionisti bisogna progressivamente alzare gli standard, offrire una qualità migliore, e non dipende dal bacino, dipende dal fattore umano. Poi c'è un altro amico, Andrea Casamassima, che chiede se sarebbe d'accordo con un progetto che dice Serie A senza retrocessioni come l'NBA, Serie B con rose composte 50% da Under 23, per dargli una finalità, una connotazione. Sono due cose indipendenti. Alla prima considerazione dell'amico rispondo come ho già risposto: l'NBA è un altro mondo, ed è un altro mondo lo sport professionistico americano, io non credo agli innesti decontestualizzati, quindi non fa parte della nostra cultura, ma della nostra cultura europea e della nostra cultura calcistica, e se vogliamo appartenere alla famiglia mondiale del calcio, il meccanismo di promozione e retrocessioni è un meccanismo fondamentale, perché è la testimonianza di un sistema aperto nel quale a determinate condizioni, soprattutto sportive ma anche di altra natura, si può crescere e si può migliorare anche nel livello del campionato. Dopodiché, che la funzione della B debba essere quella, più o meno con dei vincoli o con delle scelte che le società peraltro di B stanno già facendo, è indubbio, tant'è che non è un caso prima di tutto che in B giochino il 75% di giocatori italiani o di scuola italiana, e che in questi 4 anni si sia moltiplicato per 4 il numero dei giocatori under 21 e il loro minutaggio in campo. Vuol dire che quella missione la stiamo interpretando. Marco. Io ho due riflessioni da fare, e appunto vorrei che poi il presidente Abodi le commentasse. La prima è che poi c'è Stefano da Bari. L'anno prossimo potrebbero arrivare in Serie B il Pavia cinese e l'Ascoli nordamericano, e quindi questo magari può essere un arricchimento. E il secondo è che sono d'accordo, insomma, con il presidente Abodi quando parla di necessità di dare competitività generale al sistema. La Premier League, che ha appena chiuso per il 2016-2019 un contratto da 5 miliardi di sterline, 7 miliardi di euro, cifre che fanno impallidire le nostre. In ogni caso, all'interno della Serie A ha un criterio di ripartizione molto molto democratico, 1/1,5 il rapporto contro il nostro, che è 4-1, e di fatto questo permette a tutte le squadre di essere competitive. C'è un paracadute di 70 milioni per 4 anni. Forse sono questi, insomma, gli elementi, cioè, ai quali bisogna ripensare. Il paradosso è, poi ci sono, c'è anche chi la pensa diversamente, è che per assurdo, nel momento in cui si dice il Carpi non deve salire in Serie A, forse la ricetta sarebbe il contrario, cioè togliere altri soldi alle grandi, presidente. Ma qui il tema è anche diverso, è il contratto inglese della Premier League fa impallidire non soltanto quello italiano, ma anche quello tedesco, quello spagnolo e quello francese, quindi diciamo che siamo almeno da questo punto di vista in buona compagnia. Ma l'elemento determinante non è tanto e soltanto il modello di ripartizione, ma la combinazione dei fattori di ricavo, perché viene lasciata alle altre voci, che sono assolutamente verticali, determinare il differenziale, ovvero il ticketing, overo il marketing, ovvero il merchandising. Sì, tutte le altre voci. Da noi tutto questo differenziale non c'è, perché per due terzi e forse qualcosa di più la struttura dei ricavi è determinata dalla televisione, e quindi è in quella voce lì che si determinano i criteri che stabiliscono le differenze di apporto al sistema. Quindi per certi versi diventa difficilmente comparabile la situazione. La verità vera è che intanto le analisi così fredde rischiano di diventare poco produttive, diciamo così, ma dobbiamo esercitarci, e non succede, per capire come continuare ad intercettare la passione della gente, perché quello è il fattore decisivo. Perché si dimentica un fatto, che le televisioni non sono rappresentate da dei beneficiari, cioè dei benefattori. Le televisioni sono sostanzialmente degli intermediari, sono un ponte tra la gente e lo spettacolo. Se la gente non determina delle condizioni utili, la televisione non esprime quei numeri. Allora, ricostruire il prodotto, oltre che il modello, per andare incontro alle esigenze delle persone, dei nostri tifosi. Sì, anche perché il prodotto oggi non piace tantissimo. Stefano da Bari. Stefano. Salve. Prego. Più precisamente sono a Bari per l'altro, ma sono di Benevento. Sì. È quasi un caso, ma forse non vuole, che vengo dopo quell'ascoltatore di Salerno. Devo trattare l'argomento scendendo di categoria, ma rimanendo sempre sul tema, e sì, quindi sull'Otito. Come sapete, l'Otito è il presidente della Salernitana, e forse se state seguendo anche un po' le vicende di quella serie, il Benevento Calcio, lo Sporting Benevento, quest'anno sta facendo un campionato meraviglioso. Sì. Ora, sulla luce di quelle che sono state le dichiarazioni di Lotito, che sono gravissime, secondo me nemmeno enfatizzate e stigmatizzate, nemmeno troppo. Che è successo? Sì, a mio giudizio sono cose troppo gravi. Come pensate che possa vivere serenamente il resto del campionato il Benevento, quando dietro di sé c'è una squadra guidata da questo uomo, il presidente Lotito, che ha questo tipo di potere, presidente, che comanda Magalli. Prego, esatto. Presidente, perché poi il discorso si può allargare anche alla Serie B, presidente. Per carità, ma io ho un elemento di serenità di fondo, che spero non sia di incoscienza, perché non credo che lo sia, che è determinata dalla fiducia che ho nei confronti della classe arbitrale, che è terza rispetto alla politica delle leghe e anche alla politica federale, anche se ne fa parte. Dopodiché ci confrontiamo ogni weekend con gli errori anche degli arbitri, ma non solo degli arbitri, ma questo fa parte del gioco, e rispetto al passato gli errori di tutti erano un po' più sporchi. Oggi sono convinto che si tratti di errori sicuramente più puliti. Sì, non è stato però un bello spettacolo quello che è successo tra sabato e ieri sera, l'allenatore dello Spezia che ha detto campionato falsato perché adesso il Carpi sarà protetto. Ieri credo il vicepresidente del Catania ha detto qualcosa di simile. Sì, perché vengono da altri paesi, evidentemente non hanno ancora capito come si sta al gioco nel nostro paese con tutti i suoi limiti. Mi sembrano affermazioni altrettanto gravi, siano ingenerose, superficiali e determinano un moltiplicatore di precarietà e di sfiducia della quale non abbiamo bisogno. Non è così, non condivido assolutamente né l'uno né l'altro. Io ricordo 800 24 00 24, filo diretto, se volete chiamare vi prenotate e intervenite. Sì, sull'Otito, chiarito dunque il fatto che quel discorso lì di cui lui dà conto nella famosa conversazione con il direttore dell'Ischia era un discorso generale sui massimi sistemi. Però... assolutamente sì, ed è bene ribadirlo, perché sì, sennò non sia neanche credibile quando si stigmatizza il contenuto nella sua sostanza. Quindi, tanto per fare l'agenzia, me la confermi. Abodi, due punti, Lotito non mi ha mai fatto pressioni per favorire alcune squadre con un bacino d'utenza più grande rispetto a squadre con un bacino d'utenza meno grande. Questo al 200%. Perfetto. Questo è il virgolettato pronto per le agenzie. Volevo capire però se, visto che quella telefonata l'abbiamo sentita tutti, va ricordato che è una telefonata privata, ma se quel tipo di tono, un po' diciamo da padrone del vapore, se mi passi l'espressione, no? Cioè da dominus del calcio italiano... Ho presunto, ecco, perché poi ci può essere anche l'ipotesi di millantare, ovviamente. È o no il padrone del calcio italiano oggi? No, assolutamente no, intanto perché esistono sette componenti che hanno comunque un peso ognuno. Il fatto che Claudio Lotito sia più presente, più intraprendente, in alcuni casi anche più sfacciato, non determina necessariamente il controllo. Il calcio ha i suoi contrappesi e non è un contesto dove ci siano padroni, secondo me. Dopodiché, scusate, ma è giusto anche che io dica, visto che c'è questa possibilità, che dica che cosa ho risposto a Claudio Lotito, perché anche certo, se è importante, certo. No? Qualcuno può aver pensato, vabbè, ma perché non l'ha denunciato? Perché non ritenevo ci fosse nulla da denunciare, evidentemente, ma gli ho risposto che vive su un altro pianeta, che ha un'idea di calcio che non è quella che è prevalente, e che io non mando giù e non mando su nessuno, perché da noi va su e va giù chi se lo merita sul campo. Posso girare un paio di domande che sono arrivate via Twitter. Certo. In altri paesi si viene stromessi dal potere per molto meno, in Italia si ha la sensazione che non ci sia limite. Beh, questa sensazione c'è, Presidente, considerata sì, anche la resistenza di queste ore. Sì, diciamo che sicuramente è una sensazione che ci portiamo da casa, diciamo, nel vissuto quotidiano di cittadini, prima ancora che di appassionati di calcio, perché in questi decenni quante volte si è avuto il senso dell'impunità o della prevaricazione. Quindi capisco che c'è una predisposizione culturale da parte nostra a valutare in questo modo anche un po' oltre quella che è la realtà dei fatti. Dopodiché io ancora aspetto qualche giorno, perché ritengo che ognuno debba rispondere di ciò che dice, ciò che fa, e penso anche che più si è in alto in una scala gerarchica, che più si debba rispondere e più se si sbaglia si debba pagare. Questo non vuol dire un accanimento nei confronti di questo o di quello, o dell'estromissione di questo o di quello. Però se facesse un passo indietro sarebbe gradito. Beh, intanto io ho posto un problema dal punto di vista formale in relazione quantomeno alle deleghe, perché Claudio Lotito è un consigliere federale in rappresentanza della Lega di A, e io non mi permetto di esprimere giudizi su l'attribuzione della titolarità di rappresentante della Lega. È un'altra Lega, è giusto che ne parlino al loro interno, e non penso che ci sia neanche bisogno di esasperare i toni in questo senso. Però la delega alle riforme sì, perché ho detto ieri, se si è il ministro degli esteri di un paese diventa difficile pensare di esercitare la funzione diplomatica quando si è, non dico in disaccordo, ma spesso in conflitto con mezzo mondo. Lotito, Presidente, ha detto anche che la Serie B non c'è una lira, non c'è una lira, e quindi ci sono in realtà progetti che lei sta portando avanti da un po', come Bifutura, progetti legati agli stadi, agli sponsor collettivi. Possiamo fare un piccolo bilancio a che punto siamo? Aggiungo a questa la domanda di Matteo su sì. Twitter, che dice: ma come è possibile che anche in B falliscano squadre durante il campionato? Siena, Bari l'anno scorso, Varese, Brescia, che sono a rischio oggi. Prego. Allora, prima di tutto io credo che alcune società di B, ma diciamo la categoria nel suo complesso, sia in una fase di convalescenza finanziaria. Ci siamo dati delle regole sempre più stringenti, il tetto salariale, il tetto alle rose, ci sono molti indicatori finanziari. Probabilmente dovremo adottare altre modalità per fare in modo che le società che non hanno la struttura finanziaria e patrimoniale adeguata non si iscrivano al campionato, perché indubbiamente fallimenti o crisi in corso di stagione non è che siano una garanzia. Fermo restando che tutte le nostre società, anche nei momenti peggiori, lo ha dimostrato il Bari, lo ha dimostrato il Brescia, danno il meglio e il massimo di sé, perché ci sono dei professionisti, e comunque sanno tutti che c'è sempre un futuro e quindi bisogna garantire con un presente adeguato in termini di prestazione, quindi la regolarità del campionato è sempre stata garantita. Dopodiché questa convalescenza, oltre alle decisioni che abbiamo preso, può essere superata più velocemente anche dal rispetto degli accordi che ci sono di separazione tra Serie A e Serie B. Vi do soltanto due elementi che sono utili perché sono quantitativi, quindi oggettivi e non discrezionali. In Germania c'è il 21% di mutualità tra Bundesliga 1 e 2. In Francia tra Ligue 1 e Ligue 2 c'è il 19% di mutualità. Da noi siamo molto meno. Vendono insieme i diritti televisivi. Da noi c'è meno di un terzo, nonostante gli accordi prevedessero di più, e non si vuole vendere insieme, non soltanto per problemi diciamo burocratici, e quindi è evidente che i ricavi televisivi della Serie B siano un centesimo della Serie A. Presidente. E questo è già tanto che non metta in default complessivo il sistema, certo. Quindi io devo ringraziare le proprietà e i tifosi che comunque mantengono tengono in piedi le aziende. Le chiedo risposte sì, no, flash, perché siamo in chiusura. Massimiliano scrive, ma perché lei votò Tavecchio e Lotito quest'estate? Aggiungo io, se si è pentito. 10 secondi. Allora, un'altra cosa per chiudere la domanda che mi è stata appena fatta. Noi su tutti i progetti andiamo avanti. Oggi siamo a Frosinone, abbiamo appena finito un incontro con il sindaco, tutta la parte tecnica del comune, con l'assessore allo sport, con la società. Costruiremo, se ne sono convinto, almeno 3 stadi nei prossimi 3 anni. Costruire stadi non è come costruire castelli di sabbia, quindi almeno questi aspetti di sforzo che la Lega e i 22 club stanno facendo credo che debbano essere riconosciuti. Risponda alla domanda di Massimiliano. Se si è pentito di aver votato Tavecchio. Non sono pentito e non siamo pentiti. Oggi lo rivoterebbe Tavecchio o Lotito con quello che significava? Noi abbiamo votato il presidente federale, non abbiamo votato un ticket. Ed è importante che sia sempre più presente, siano sempre più presenti ed efficaci ed influenti tutte le altre facce del calcio. Lo spazio è a somma zero, se Lotito si prende uno spazio è perché qualcuno glielo lascia. È colpa anche nostra, dobbiamo fare un passo avanti in termini di responsabilità e di efficacia. Quindi non è pentito l'aver votato Tavecchio? Io quando prendo un impegno cerco di portarlo a termine. In Italia capita spesso, anche dal punto di vista politico, dopo un minuto che sono state chiuse le urne elettorali, certo, Già si pensa alle prossime elezioni. Abbiamo 2 anni e dobbiamo gestirli per produrre delle soluzioni e dare delle risposte ai nostri tifosi. Se il sistema va in crisi ci porremo il problema, ma dobbiamo fare in modo che non vada in crisi. Arrigo dalla provincia di Pesaro. Arrigo, flash, così sì, riusciamo a rispondere, abbiamo anche altre domande. Prego Arrigo. Allora, no, sullo Tito volevo dire il personaggio è quello che è. Però facendo una riflessione mi viene da dire quello che ha detto è una cosa non fuori dal mondo, insomma, ecco, perché se il calcio in Italia deve essere venduto alle televisioni, no? E tutti i diritti televisivi. Insomma, dici che Lotito ha qualche ragione dal punto di vista economico. Il presidente Abodi ci ha già spiegato che secondo lui non è così. Fatemi dire una cosa: prima di essere venduto alle televisioni, deve essere offerto nel modo giusto ai nostri tifosi di tutte le squadre. Certo. Sì, quindi non è solo una questione di televisione. E poi rapidamente c'è un amico, Gianluca, che chiede: le va bene una Serie A 18 squadre, ma solo con 2 retrocessioni? Alza la mano e vota sì se passa questa proposta. La Serie A 18 squadre è un problema della Serie A. Sì, però diciamo ridurre i numeri in generale. Le 2 retrocessioni, le 2 promozioni incidono sulla qualità delle competizioni, sia Serie A che Serie B. E se i modelli europei prevedono al minimo, al ribasso, 2 promozioni e 2 retrocessioni e un playoff, ci sarà una ragione. Certo. Mentre le altre stanno ancora tutte a 3 retrocessioni e 3 promozioni. Cioè, il rischio è che con 2, se non ho capito male, che con 2 promozioni e retrocessioni in pratica ci siano tante partite inutili. O esattamente, esattamente, certo. Questo, tant'è che noi abbiamo proposto il modello tedesco 2+1. Okay. L'ultima risposta la chiedo a tanti, facciamo la sintesi, ma sono tanti che hanno scritto ponendo la questione di dignità, cioè se avete la dignità di fare qualcosa per mandare via Lotito, è in parte Tavecchio, ma è soprattutto diciamo Lotito oggi il bersaglio della rabbia popolare. Noi dobbiamo avere la dignità soprattutto perché certe cose non succedono più. Questa è l'unica cosa che mi va di dire ed è l'impegno che abbiamo preso da sempre e oggi ancora più di sempre. Quindi non è un problema di persone, ma è un problema di comportamenti e linguaggi e noi da questo punto di vista saremo inflessibili. Lei ha sentito Lotito dopo la questione del cretino nell'intervista al Corriere della Sera? No, non l'ho sentito né quel cretino. cretino né dopo la rettifica che ha trasformato il cretino in un si ostenta a non capire, che è sostanzialmente un modo più gentile di dire la stessa cosa. E quindi non le è piaciuto ugualmente, anche se più gentile? Sì. No, anche perché bisogna avere rispetto delle opinioni degli altri. Certo. E io non rappresento soltanto me stesso, anzi direi non rappresento quasi per niente me stesso, rappresento 22 società e 22 comunità sportive, e una volta tanto nella vita si può anche chiedere scusa di un errore. Sì. Non l'ho ancora sentito in tutti questi anni da parte sua. Sì, non l'ha ancora fatto, e quindi questo vale come commento. Grazie Presidente. Grazie davvero. Buona giornata a voi. Grazie ad Andrea Bodi, abbiamo finito. Beh, ringrazio, bello, eh? Sì, ringrazio per Luigi Parro, sono arrivati tanti messaggi, sì. Non c'è stato tempo per leggerli tutti. Ringrazio anche Marco Bellinazzo, le sue notizie sul Milan e grazie sul Parma. A voi, a presto. Domani dopo il GR delle 14 torna Carlo Genta dal Carnevale di Pavia. Pochi secondi ormai, si aspetta solo il fischio finale, si aspetta solo il fischio, ecco!